Beh, possiamo esordire così, no? Che questa è stata una settimana della biblioteca un po' intensa, perché abbiamo iniziato lunedì di nuovo con le nostre attività, poi martedì c'è stato il caffè delle lingue, ieri abbiamo avuto una presentazione dei nuovi percorsi, insomma siamo una biblioteca un po' attiva, un po' così propositiva, e abbiamo anche un pubblico che ci segue nelle varie. Affezionati. Sì. E oggi abbiamo anche l'onore di avere con noi Marco Imperato, che viene dalla Spezia, è un procuratore, dopo anni anche di attività nella procura di Marsala. Chiaramente accanto alla sua attività istituzionale si occupa, e di questo lo ringraziamo, di diffondere la conoscenza anche di quello che è la legalità. Leggevo anche dalle presentazioni che la legalità, il concetto di giustizia, non è né di destra né di sinistra, viene ribadito più volte, e quindi insomma è un bene comune che andrebbe difeso e che purtroppo anche la storia contemporanea lo dimostra tristemente, non è poi così scontato. Ci siamo abituati veramente ad un degrado e a un decadimento di certi valori, e tristemente lo ammetto, perché appunto anche solo guardando la sera la televisione, qualche così facendo un po' di zapping, viene sempre riproposto a sprombattuto lo stesso concetto, e se uno non ha un minimo di difesa, ci casca dentro assolutamente. In maniera quasi inconsapevole, ecco. Quindi penso che la biblioteca possa fare nel suo piccolo anche dare un piccolo contributo, perché è un posto pubblico di libero accesso, aperto a tutti, e si fanno sforzi incredibili per aprirlo il più possibile, anche in termini di temporali, di orari di apertura. E qui ci vuole anche una forte motivazione, no? Siamo impiegati pubblici a volte, no? Si dice che la pubblica amministrazione magari non è sempre il fiore all'occhiello, però in realtà se ci sono delle motivazioni perché si intende un servizio pubblico, come il nostro procuratore, ma anche in altri ambiti, si cerca di fare del proprio meglio e soprattutto di servire per diffondere un'informazione, un'educazione, dare degli strumenti a ciascuno di noi per formare un proprio percorso. Questo è un concetto che abbiamo più volte ripetuto e ribadito. L'anno scorso abbiamo fatto un lavoro grosso sul concetto di bene comune, no, Elena, anche all'interno del Festival delle Resistenze. E in questo ci crediamo, ecco. Faccio questo piccolo cappello, però perché volevo spiegare anche perché la biblioteca si adopera ogni settimana per fare delle iniziative in questo senso. Io ringrazio ancora Marco Imperato, che stamattina è stato ospite per l'inaugurazione dell'anno accademico, e ha avuto un grande riscontro, perché ci sono arrivate in anteprima dei feedback dicendo che è una persona interessantissima. Abbiamo qui i libri anche che ha pubblicato, e in particolare oggi Sì, chiaramente è libero l'occasione è questa, diciamo, questa è è un un'occasione, pretesto per parlare insieme, insomma. però per parlare di giustizia, di cos'è la giustizia, di come funziona, di come qual è la realtà in questo momento in Italia. E ecco, a lei la Grazie, parola, e grazie grazie, grazie ancora. mille. Grazie. Io provo a mettermi qui davanti perché sennò veramente faccio fatica, mi piace. Per la registrazione non è un problema, vero? Posso muovermi, posso stare dove voglio. Ok, allora Grazie, faccio così, mi regge, spero mi regga se mi appoggio. sì. Questo Sì, non ti certo. giù. No, no, no, bello massiccio. Vabbè. Vediamo. Proviamo a fare così. Sì, perché insomma non sono un po' di peso minimo. Allora, sono qua che mi piaceva fare una cosa, e soprattutto fin da subito vi dico le cose essenziali del perché è nato questo libro, di quello che è un po' il mio lavoro e perché faccio questo. Al di là dello scrivere, il libro nasce perché ho sempre fatto spontaneamente un discorso, diciamo così, di informazione e di incontro con i cittadini, con gli studenti. E poi, visto, diciamo, l'ambito, mi piacerebbe, se ci sono vostre curiosità, domande, vi posso aiutare non a rispondervi o a darvi risposte. Non voglio mai passare per quello che va in giro a spiegare come stanno le cose e a dirvi cosa pensare. Però Darvi, come diceva benissimo, padrone di casa, a darvi qualche strumento, ecco, per poter poi farvi voi autonomamente una vostra opinione. E purtroppo cosa triste è accorgersi, io magari me ne accorgo sulla giustizia e ho bisogno di aiuti ovviamente in tantissimi altri campi, che qualche volta o non abbiamo idee o ancora più pericoloso pensiamo di avere delle idee, invece cioè, ci viene fornito un pacchetto. Io faccio il pubblico ministero, sono stato a Milano e poi dopo che sono diventato pubblico ministero sono stato 4 anni in Sicilia, in procura Marsala, che era stata l'ultima procura di Borsellino, e poi adesso sono da 4 anni in Emilia Romagna, sono un po' girato un po' dappertutto. Nel fare questo lavoro e nel lavorare in uno dei, credo, dei comparti più frustranti, più difficili del nostro paese, che è la giustizia, mi è venuto naturale, fin dall'inizio, piano piano, prima con gli amici, poi con una mail degli amici e conoscenti, poi creando un mio blog dove raccogliere le mie riflessioni, tenere aperto un canale verso la città, nel senso che chiaramente occuparsi di giustizia in Italia non è come occuparsi in un altro paese, ma non per una mia opinione, credo che questa non sia una mia opinione, ma derivi dai fatti, lo dica la storia, lo dicono delle un'osservazione semplice. Io una delle cose da cui inizio come considerazione nel libro delle parole della giustizia, che vuole essere così una piccola guida da alcune parole chiave che vengono molto spesso mistificate in questi anni di dibattito, è che l'Italia ha un problema speciale rispetto a questo, anzi direi due. Da un lato, ne parlavamo stamattina, che una cultura della legalità molto carente, se non una cultura dell'illegalità, nella quale in realtà le regole le pieghiamo sempre ai nostri comodi, alle nostre opportunità, alle nostre esigenze. E altri paesi hanno un rispetto e un'adesione alla regola molto profonda. Da noi è sempre una fatica, vissuto con intolleranza, soprattutto è molto facile magari poi predicare, ma spessissimo ci accorgiamo che quando le cose riguardano noi da vicino vorremmo poter aggirare. Quindi c'è questo problema, direi atavico, che ha una storia molto lontana, probabilmente anche tutte le diverse vicende storiche, avvicendamenti, hanno fatto sì che ci sia un'intolleranza verso la regola, verso l'autorità, una voglia di flessibilità che insomma crea questo problema. E poi c'è un problema invece più, diciamo, ancora più originale dell'Italia, in cui questo credo davvero che sia quasi unica, è che non c'è un altro paese, non solo non c'è in Occidente, in Europa, ma non penso che non ci sia al mondo, un altro paese che ha i fenomeni criminali del potere che abbiamo noi, nel senso che noi non abbiamo la magistratura, il sistema giustizia in Italia non si deve occupare semplicemente di delinquenza e criminalità comune, come tutti i paesi, come in ogni epoca, ogni latitudine, in ogni... In Italia abbiamo 3 fenomeni che nessun altro paese, ripeto, né occidentale né di altre zone vede tutti e 3 insieme. La presenza delle mafie, e la mafia è una criminalità particolare, perché è una criminalità che ha a che fare con il potere. Non, normalmente le associazioni criminali ci sono in tutti i paesi, per esempio pensiamo ai cartelli della droga di cui magari ogni tanto leggete in Colombia o in Messico. Quelli è un business violento, è un business che poi sì, sicuramente interagisce col potere, ma solo nella misura in cui gli serve corromperlo per poter fare il suo affare. Non ha interesse di altro tipo, interesse è un arricchimento predatorio, spietato, che è tipico, diciamo, di tutti i vari tipi di delinquenza più pericolosa. Ma la criminalità organizzata è questa, ma la criminalità mafiosa ha un dato in più di tutti i tipi di mafie. La criminalità mafiosa ha dato in più che le mafie non si accontentano mai soltanto di fare il loro affare, ma hanno sempre interesse e la volontà di controllare il potere nel territorio in cui vanno. hanno la vocazione a corrompere, inquinare, deviare il potere. Tant'è vero che c'è una delle, diciamo, delle terminologie che più si usano, è l'infiltrazione mafiosa. Perché è una necessità e una volontà tipica delle mafie, che storicamente sono un antistato, sono un altro stato. Si può dire in tanti modi, per esempio c'era chi diceva che tra mafia e Stato, proprio per questa vocazione e aspirazione a essere un potere vero e proprio e non semplicemente un'associazione, diciamo, segreta che vuole fare degli affari illeciti, è qualcosa di più, ha interessi a interloquire, a occupare e a deviare le decisioni del potere pubblico. E infatti si dice che tra mafia e Stato o si fa la guerra o si fa la pace, non sono due entità parallele, cioè la mafia ha interesse a deviare quelle che sono le decisioni del percorso dello Stato. Questo, ecco, ci siamo qui, ma per dirvi, ecco, la criminalità mafiosa non è semplicemente una criminalità organizzata, molto violenta, molto pericolosa. Il vero dato peculiare è che è un pericolo per la democrazia. Cioè, quando si infiltra la mafia in un paese in cui c'è molta mafia, e lo dicevo con una battuta stamattina, vi assicuro che è vero, non vi posso parlare dell'Alto Adige perché non lo conosco da vicino. Io ho lavorato in Sicilia, ho lavorato a Milano, ho lavorato in Emilia Romagna vedo più mafia che a Marsala. Da un certo punto di vista, va bene? Quindi il discorso, soprattutto dal punto di vista dei soldi, quindi anche più difficile da contrastare. È un problema italiano ed è un problema per la democrazia. E per questo, fatto questo percorso, diciamo, di ragionamento, per questo riguarda tutti. Per questo non è, uno può dire, ma mi interessa, non so, il fenomeno, alcune criminalità, mi indigno particolarmente per un fenomeno piuttosto che per un altro. Ovviamente ognuno può interessarsi o meno. Secondo me questi problemi riguardano tutti perché sono dei pericoli per la democrazia. Mafie. Scusi, non è stata colpa un po' anche dei governi politici, per esempio, che si appoggiano? Ah beh, sicuramente ci sono tantissime vicende anche storiche che hanno sfruttato purtroppo spesso il potere, andato a braccetto perché ha trovato dei territori. Lì ci sono anche delle vicende, bisognerebbe parlare in modo diverso probabilmente di quella siciliana, che è una storia diversa da quella camorrista, da quella dell'Andrangheta. Per quella siciliana è sicuramente vera che è sempre stata ha avuto il controllo di quella zona, così comunque strategica per tanti motivi, e quindi lo Stato c'è sempre andato a patti fin dall'inizio e così è sempre continuato, è sempre interloquito, è stato uno scambio di interessi, voti, controllo del potere, controllo del consenso, eccetera, eccetera. Questo sicuramente, soprattutto per la mafia siciliana, che è quella che ha sempre avuto più canali diretti con il potere. Diverso, un po' diverso è il fenomeno della camorra e dell'andrangheta. Quindi sicuramente è così. E poi tra l'altro c'è anche poi un discorso, qui diciamo apriamo un'altra finestra per fare un flash, della cultura mafiosa, che va molto al di là delle sole mafie, perché la cultura mafiosa, purtroppo c'è la cultura, diciamo stamattina, del favore invece che il diritto, del dover chiedere in concessione invece del rivendicare quello che mi spetta, del doversi chiedere la protezione di qualcuno più forte, più importante per poter non avere problemi, è una logica. Quando io dico queste cose, ognuno di voi può pensare a tanti ambiti lavorativi, a tutte le regioni d'Italia, è un modo purtroppo, è una patologia della nostra cultura del potere nel nostro paese, non è una cosa solo della, anche uno che non ha niente a che fare con le mafie. Sì, perché a volte è proprio stesso anche nel costume stesso, perché tanti ti dicono, ma guarda, vi facciamo un favore a fare questo servizio, ma sì, lo dicevo. No, ma probabilmente già in questo. Si insinua in questa maniera anche innocente, sì, delle volte, no? Come il discorso di cortesia in Sicilia, io l'ho vissuto, mi sto a Palermo, raccontavo qualcosa, cioè nel senso che delle volte è vissuta come una forma di cortesia, però in realtà in quella maniera tutto diventa cortesia, per cui io devo dire grazie di tante cose a tutti, quando io vorrei, insomma, nelle cose che riguardano la vita pubblica, non voglio dire grazie, voglio avere quello che mi spetta e fare quello che devo fare o pagare quello che devo pagare per avere un servizio. Invece questa logica del carpisce un consenso, fa un favore per poi poter in realtà in quella maniera aver accaparrato un voto, una persona che poi, cui poi posso chiedere un piacere e che mi sarà fedele e affidabile. C'è un libro fondamentale, che secondo me nello spiegare in maniera molto approfondita e anche storica questo tipo di logiche, che è Il ritorno del principe, che si richiama Machiavelli, non ad altro, di Scarpinato, quello che adesso è il procuratore generale a Palermo e che si occupò del processo Andreotti, ma giusto per dirvi la figura storica, non, che ha un uomo di una cultura eccezionale che fa un'analisi anche sociologica di questa cosa, vi consiglio, è appunto una delle chiavi che fa capire, con anche testimonianze, oltre che ragionamenti diciamo storici, è che la affidabilità e la ricattabilità delle persone è una caratteristica chiave per poter avanzare e fare carriera in tutti gli ambiti di potere. Le persone indipendenti e brave da noi di solito rimangono isolate, guadagnano la dipendenza, ma difficilmente, io lo vedo molto bene nel mio lavoro, dove delle volte si vedono fatte certe nomine, cioè vengono chiamate certe persone al ministero, al governo, in certi posti, siamo in un ambito, mi state registrando ma fa niente, lo stesso, perché vi racconto una piccola storia, no, ma nel senso, mi spiace entrare nei singoli casi perché non vorrei, però vabbè, questa storia, come dire, c'è stato alcuni anni, è stato piuttosto celebre, il pubblico ministero di Milano, D'Ambruoso, che oggi ha fatto un certo tipo di carriera, e che avendo fatto nulla, per questo lo racconta Spataro, che invece è il più importante forse al mondo, pubblico ministero che si occupa dell'indagine antiterrorismo e anche antiterrorismo islamico, altro libro molto bello, Ne valeva la pena, della terza, che racconta questo. Questo D'Ambruoso, avendo fatto un'indagine praticamente solo per una vicenda di immigrazione clandestina collegata a degli islamici, ma in cui non c'erano cellule di Al-Qaeda, ha su questo, con abilità, costruito un'immagine del più grande PM antiterrorismo, poi è andato a Vienna a fare il super esperto di terrorismo per l'ONU, avendo fatto, ripeto, un'indagine per immigrazione clandestina, poi è andato al governo a fare il proprio gabinetto e oggi è in Parlamento con il PDL, non mi ricordo con che cosa. Cioè lì c'è una e questo. E mentre nello stesso ufficio c'erano altre due o tre persone, dico Spataro, ma ce ne sono anche altre due o tre, con delle professionalità assolutamente riconosciute, come questo campo avrebbero potuto fornire in quegli uffici a Vienna o altre cose un contributo. Ma non li chiamano perché non sono persone affidabili, non sono persone a cui posso chiedere un favore quando ne ho bisogno. Purtroppo è così. Quasi mai, normalmente la persona veramente indipendente non è chiamata. Che questa è proprio opinione personale, visto che la chiacchierata è così, è una delle ragioni per cui Rodotà è stato fatto da parte anche per la Corte Costituzionale. Perché Amato sicuramente è una persona, non entro nel testo giuridico, che ha una preparazione, cioè, sicuramente ha un profilo, un curriculum importante, però come giuristi ce ne sarebbero altri. Il problema non è la qualità, è avere una persona con cui poter interloquire, non dico per forza corrotta, subito in maniera penalistica, però dico affidabile, con cui posso interloquire, che conosca le mie logiche. E lì si crea questa palude, no, del potere, dello scambio, del favore, dove alla fine gli interessi di questo, di quello, certe logiche prevalgono sugli interessi invece pubblici che dovrebbero presidiare in quel posto. Abbiamo fatto un dei giri strani. Torniamo, volevo dire, quindi le patologie strane erano la mafia, e abbiamo fatto questo ragionamento, una anche la cultura mafiosa, aggiungiamoci, e la corruzione. Questo è un paese che ha dei tassi di corruzione da terzo mondo praticamente, siamo le rilevazioni sono molto relative, ma se voi guardate c'è un'unica agenzia internazionale che è affidabile da questo punto di vista, e l'Italia è, mi pare, su 250, sarà intorno a 150, poco più bella Somalia, sì, è proprio tra paesi africani e asiatici, cioè, dove tenete presente che non è il terzo mondo, attenzione qui da intendere, non è che perché uno è più povero, ecco, ovviamente i paesi con situazioni economiche e sociali più difficili, con guerre, ovviamente in quei posti il tasso di corruzione è più alto, perché se non ho da mangiare, in Messico il poliziotto si vende al narcotraffico, perché cioè, ovviamente in quelle realtà lì la corruttibilità delle persone è molto più alta. Noi abbiamo quel tasso di corruzione, pur avendo invece degli standard di altro tipo che dovrebbero essere diversi. E quindi siamo nel panorama europeo, siamo un'anomalia. Aggiungiamoci questo col discorso che facciamo anche stamattina, che noi abbiamo una tolleranza verso la corruzione che invece è ai massimi livelli, cioè noi tolleriamo fenomeni, il permanere di fenomeni, di figure, comunque mettetelo come volete, macchiate con, cioè ripeto, io ricordo, ci sono tanti episodi da questo punto di vista all'estero, gente, ministri che si sono dimessi perché non hanno pagato i contributi alla babysitter, no? Cose che fanno sorridere da noi, esatto, fanno sorridere. E quindi abbiamo questa corruzione altissima che ha alla fine prodotto una cultura che la tollera sotto varie forme, o la rifiuta in qualche caso, cioè non è vero, o comunque addirittura quasi peggio la tollera, in realtà la giustifica in sotto varie forme. Perché poi tenete presente una cosa, che il crimine del colletto bianco, cioè del professionista, del magistrato, che ne facciamo tanti anche noi di reati, il crimine del commercialista, dell'avvocato, del politico, cioè la borghesia, la classe dirigente, è tipicamente stato dimostrato dai sociologi che queste persone tendono a giustificarsi, a non percepire il disvalore di quello che commettono, perché a loro sembra giusto così, perché si crea un altro, cioè una cosa sulle regole, si fa così, alla fine l'ho fatto lavorare, si costruisce una giustificazione. Dico questo perché questo fa capire quanto sia importante, quindi, che l'opinione pubblica, ci sia una cultura che invece fa percepire questa cosa, perché altrimenti non ce ne accorgiamo più neanche. Diventa il rumore di fondo, è un rumore di fondo che ha un costo altissimo, perché la corruzione ha un costo sociale rispetto all'impoverimento, ai soldi che toglie a tutti, al pubblico e alle nostre tasche, enorme. Altro che manovre, altro che IMU, non IMU, cioè se noi domani potessimo immaginare di, non dico tagliare tutto, ma ridurre a livelli europei la corruzione, avremmo già fatto i prossimi 2 anni di manovre, ma si parla di 60 miliardi, mi pare, all'anno il calcolo della Corte dei Conti, ma sono calcoli un po' fatti così, ma la situazione è di questo tipo. E questo costo, ripeto, lo paghiamo tutti. Quindi, mafia, corruzione, quindi un altro fenomeno criminale che riguarda il potere, perché questo è il punto, e poi il terrorismo, sotto varie forme, in vari momenti storici, destra, sinistra, eversivo, deviato, tutto quello che volete, locale, non locale, ma abbiamo avuto diversi carsici che poi spariscono, tornano fuori, fenomeni di terrorismo. Anche qui un fenomeno criminale che riguarda che cerca di condizionare il potere, perché il terrorismo è un fenomeno criminale che però appunto ha, sono tutte e tre queste cose, sono tre fenomeni criminali e tutti e tre riguardano una minaccia di diverso tipo alla democrazia. Quindi capite la specialità della giustizia, del tema giustizia in Italia, capite perché è così importante, sarebbe così importante avere una giustizia che funzioni e che contrasti questi fenomeni, perché sarebbe soprattutto così importante, e lo è, lavorare per una cultura che tolga il terreno fertile, perché naturalmente questi fenomeni devono trovare del terreno fertile, devono trovare persone disposte, corruttibili, che si lasciano tentare, che sono disposte a vendersi, a perdere la propria indipendenza, devono trovare quello che è disposto a chiedere il favore perché gli interessa il suo piccolo orticello, non guarda lontano. Se noi li togliamo invece, se noi avessimo partire dalle scuole, che è la cosa importante poi da fare, a partire da posti come questo, in cui si fa cultura, in cui togliamo questo, poi allora il sistema criminale di corruzione, la mafia, non riescono poi a penetrare davvero, li si indebolisce dalla base. Il contrasto giudiziario, che è quello di cui si parla di più, che è importante, che poi magari crea anche personaggi, non lo risolve mica questo problema, perché sta solo ogni tanto individuando qualche responsabilità in fondo a un fenomeno che tra l'altro è del passato, perché io faccio sempre processi, indagini e processi su fatti, è anche un participio passato oltre a essere, no? E c'è quello che sta accadendo, quello che accadrà dipende dalla scuola, dipende dalle famiglie, dipende dal potere politico, cosa sta seminando. Se io continuo a occuparmi di fatti, ma quello che li produce non viene minimamente intaccato, anzi io sto svuotando. Ecco che allora nasce un po' il mio desiderio di dire, sì, ok, io faccio il processo, oggi mi occupo di questa cosa, ma cerchiamo di far capire che cosa sta succedendo, perché se i cittadini non sono parte di questo, sono la soluzione siete voi, non possiamo essere noi. Noi facciamo un lavoro più o meno bene, che oggi peraltro non si riesce a fare perché il sistema è al collasso totale, poi se volete possiamo parlare di qualche problema, di qualche cosa, su perché tutti questi problemi della giustizia. Ed è qualcosa su cui provo anche a dire qualche cosa nel libro, però ripeto, lì non c'è la soluzione. E poi aggiungo una cosa a cui tengo, cioè, visto che è una delle polemiche che c'è costantemente nel nostro paese, il problema di dire, ma tu sei un magistrato, perché ti metti a parlare di questioni che sono politiche, perché ti metti a parlare in pubblico, perché non è il tuo ruolo fare questo. Così sei politicizzato, tutto quello che si può dire più o meno duramente, più o meno in maniera forte contro questo tipo di attività. La mia risposta è molto serena su questo, ed è che è vero che ci sono delle cose di cui un magistrato non può occuparsi, non può entrare nel merito in maniera pubblica come magistrato, e quelle sono le scelte politiche, le questioni, le scelte di valore, le scelte di tipo economico, le scelte di merito tra una legge e l'altra, che sia di tipo di politica criminale. Quelle sono cose che non lo riguardano, perché io non ho nessuna legittimazione. Io ho fatto un concorso, tanto qua quest'estate, per, pensando di insultare i magistrati, Berlusconi ha detto: sono degli impiegati dello Stato che hanno superato un concorso, in una forma un po' più un concorsino, sì, degli impiegatucci. C'era anche un diminutivo per rendere l'idea del disprezzo, no? Mi ha fatto un complimento. Io sono un impiegato dello Stato, cioè sono un servitore, sono un pubblico funzionario, all'inglese civil servant, che da tutto me impiegato dello Stato sembra un pubblico dipendente, cioè uno che dà un servizio a tutti. Cioè non sono uno che, è un punto per me di orgoglio poter fare, io personalmente avrei fatto fatica a fare certi lavori in ambito privato, perché non avrei saputo reggere certe logiche concorrenziali. Una delle cose per cui ho scelto, per esempio, di fare questo non l'avvocato, è proprio poter far servire il pubblico. E che ha superato un concorso, esatto, io ho superato un concorso, non ho portato borse, non sono figlio di qualcuno, non ho dovuto convincere le persone o essere simpatico, mi dovrebbero aver scelto, perché ero tra quelli che erano stati in grado di superare un concorso. Non è un concorso perfetto, non è che quell'anno hanno selezionato i 300 migliori, ma insomma il mio anno si erano iscritti in 20.000, e siamo 300, e quindi, ed è comunque un concorso che, per come è fatto, che grossissime raccomandazioni non le può avere. Se non all'ultimo, proprio quando c'è l'orale, c'è qualcuno furbo che è il genitore magistrato, se lo fa sedere di fianco, così vediamo, guarda che quello lì è mio figlio. Questo è il massimo che io conosco, sinceramente. Per il resto, fortunatamente, lo scrive una roba di uno squallore. Però per dire che succede una cosa. Però ecco, per il resto, devo dire, io tutto sommato va riformato l'accesso alla magistratura, però quel concorso funziona. Quindi mi stai dicendo che sono un servitore dello Stato e che sono lì per merito. E benissimo, mi hai fatto un complimento. Detto questo, io certamente non sono legittimato dal consenso popolare, ma è così che deve funzionare. Perché, e facendo lì un altro involontario errore, un altro figura politica ha citato il processo di Gesù Cristo. Adesso faccio questo discorso. C'è un altro bellissimo libro che si chiama Il crucifige e la democrazia, di Zagrebensky, fa un ragionamento laico e da giurista sulla vicenda del processo a Gesù Cristo, traendone alcune riflessioni sulla democrazia, e dice è molto bello, perché nasce da questo spunto provocatorio, cioè caspita, il primo processo democratico, o comunque uno dei primi, comunque il più famoso e antico processo democratico della storia, è finito con Gesù crocifisso e Barabba libero. Oh, porca miseria, allora la democrazia, cioè, è stato visto, ha fatto scegliere al popolo. Allora ha fatto tutto un percorso per far capire che dov'è che non funziona quella cosa, no? Quindi sul problema della democrazia non critica, cioè lì c'era una massa, e c'era massa, non c'era popolo, c'era massa manipolata, non c'era consapevolezza, no? Per cui il processo di Gesù Cristo citato in questo periodo è proprio sbagliato, perché il processo di Gesù Cristo fa fare un ragionamento che conferma che il nostro sistema invece va difeso, cioè un sistema in cui chi giudica non si preoccupa del tifo, non è uno stadio dove chi fa più rumore o chi è più bravo a convincere ha ragione. Ci sono delle situazioni in cui, anche capita spesso di vedere sui giornali, si capisce che l'opinione pubblica, i giornali o certe parti vorrebbero un certo tipo di decisione, si aspettano quel tipo di decisione, perché sono emotive nel guardare al fatto. Il bravo giudice è quello che ovviamente prende una decisione o l'altra in maniera assolutamente indifferente rispetto alle aspettative o al gradimento che questo può avere. In qualche governo precedente qualcuno era addirittura arrivato per dire che loro veramente pensano a questa cosa, la vogliono capire, ma io vorrei far capire anche con questo libro i pericoli di, proprio addirittura oltre a questa cultura, che questa cultura poi entra nella Costituzione, nell'ordinamento. fanno parte di sentimento del popolo. Ci sono delle decisioni che non sono in linea con il sentimento del popolo. C'è un ordinamento che aveva messo nella, proprio nel suo statuto questa categoria giuridica, che è il nazismo. Il nazismo parlava nei suoi codici di sentimento del popolo, perché nel nazismo l'imputato, il processo, non era un accertamento della verità processuale nel rispetto dei diritti dell'imputato, ma era un esercizio del potere nel quale eventualmente l'imputato è uno strumento per mandare un messaggio al popolo. Allora, se il popolo ha bisogno che quella zingara sia condannata, non è che importa che sia stata lei che ho le prove, importa che mandi quel messaggio. Se quello là, oppure anche, cioè, adesso ho fatto un esempio magari comodo per una parte politica, ma potrei fare anche l'inverso. Se è importante dire che quello è un corrotto, non è importante che ho le prove che sia corrotto o no, è importante dire no, contro la corruzione lo condanno. Cioè, dietro questa, invece, questo è il modo di ragionare emotivo, no, del sentimento, no? La giustizia, il processo di Gesù, qual era il problema, no? È convincere chi era più simpatico e chi era inviso o meno, non chi aveva delle responsabilità o ha fatto qualcosa. Quindi veramente si è diffusa e si possono fare delle affermazioni in cui la logica è ribaltata, ma non la logica mia, la logica della Costituzione, attenzione, perché qui arrivo l'altro aspetto. Io quello che dico lo dico, uno, perché fare giustizia non è una cosa normale, e quindi io penso che il magistrato in Italia deve essere attento, deve essere responsabile, sobrio, pensare a lavorare, non deve cercare visibilità e cose. Io, tanto per dire, su Ingroia ho avuto delle posizioni durissime, io l'ho pure scritto personalmente prima ancora che decidesse praticamente di candidarsi, per dire, cioè ho trovato tutto un percorso che tradisce il tipo di ruolo. Però allo stesso tempo dico che il magistrato in Italia, proprio per quei problemi, ha una responsabilità di spiegare alle persone, di fare una testimonianza, visto che il potere politico è interessato a non far capire spessissimo le cose, visto che non c'è un'informazione. Se ci fosse un'informazione totalmente forte, trasparente, indipendente, garantita, potremmo non fare questo lavoro e dare magari solo qualche spiegazione tecnica quando occorre, stare un passo indietro, che sarebbe meglio. Però purtroppo questo spesso non è. E da qui nasce il mio avere pubblicamente fare un'attività che non è però, ripeto, di tipo propagandistico, politico, Dio me ne scampi, perché veramente lì stai facendo qualcosa non di sbagliato solo per me, ma farei un danno alla magistratura. Io poi sono sempre convinto che noi siamo, io quando una persona ha a che fare con un magistrato, io non sono un magistrato, io in quel momento sono la magistratura, quella persona che si ricorderà di me per sempre in base a come io mi sono comportato, perché io rappresento l'istituzione per lei. E quindi sono attento a non farlo, però non voglio che questa paura, magari di essere strumentalizzato, non credo che mi debba far stare in silenzio di fronte a affermazioni, mistificazioni gravissime che vengono fatte nel dibattito pubblico a fronte di tutti questi problemi. E quindi qua, per esempio, ci sono delle cose che uno poi spererebbe che di cui non si torni a parlare, ma purtroppo rimane attuale, e temo che resterà attuale per alcuni temi, però per esempio il tema della prescrizione o delle intercettazioni, invece che aiutare i cittadini a capire quali sono i livelli della giustizia, soprattutto lavorarci e fare le mille cose che si possono fare per far funzionare meglio la giustizia, non solo mille cose che si possono fare per migliorare la giustizia, è che la giustizia, secondo me, ha un'altra peculiarità, è che è un settore pubblico che può essere migliorato non spendendo ma risparmiando. Che uno dice, se non lo fai perché non vuoi, so che non è l'ospedale, come dice Paolo, però far funzionare gli ospedali, adesso sono ignorante della materia, ma immagino che migliorare la sanità sia anche un problema di risorse. Invece la giustizia è un problema di interessi, nel senso che ci vuole l'interesse a far funzionare le cose. Far durare meno un processo, far funzionare meglio le cose, si potrebbe ottenere facendo regole più logiche, scelte più semplici. Se volete entro nel dettaglio, non so, se volete vi faccio degli esempi, però vi garantisco che posso tenervi qui fino a stasera cena per dirvi le cose che si possono fare risparmiando per far funzionare meglio la giustizia. Invece io, soprattutto nel penale, guardate, io anzitutto c'è un Io faccio una premessa, che va distinto il penale dal civile. Nel senso che io sono sinceramente convinto, e delle volte questa convinzione la trovo confermata anche da altri colleghi, che in realtà il malfunzionamento del penale è voluto. È voluto almeno da alcuni. Per una serie di ragioni dico questo. Uno, perché non si può dire che la politica non conosca il processo e il diritto, perché sono quasi tutti avvocati, giuristi e magistrati. Perché non è che dice non sanno far funzionare la sanità perché non ne capiscono, lì è pieno di giuristi. Due, perché non c'è un problema di soldi, per cui non è che dici ho il problema di ma costerebbe, devo dare chissà quali risorse. No, potresti farlo con gli stessi soldi, se lavorassimo meglio faremmo molte più cose. E poi se questi due dati aggiungo il fatto che c'è questo potere corrotto, criminale, dico allora evidentemente a qualcuno, non voglio fare mega complotti, no? Però evidentemente tante volte non c'è l'interesse a lasciare che le cose importanti arrivino alla soluzione. Vi faccio quella che è l'immagine secondo me fondamentale. Ecco, sul civile secondo me è proprio l'incapacità di questo paese di governare bene, perché nel civile io credo che la maggior parte delle forze avrebbero davvero interesse, solo interesse, perché non è un pericolo il funzionamento del civile, mentre il funzionamento del penale rischia di far essere troppo controllo di legalità e poi io non posso più gestire il potere come voglio, cioè è fastidioso. Guardate, Mani Pulite, prima le manette per strada al tifo, cosa che io non apprezzo, il tifo per la magistratura rischia di perdere equilibrio se sente il tifo. E poi dopo basta, allora poi sono stati tutti i decreti al contrario, noi siamo l'unico paese che dopo aver scoperto un fenomeno mostruoso di corruzione poi cancelliamo falso in bilancio, c'è stato proprio il rigetto, ma è un rigetto, secondo me, lì ha ragione credo Colombo, lo dica da quei libri, che nasce dal fatto che lì, e lo dice anche Scarpinato, che lì c'è stato in quel momento si è aperta una tale breccia in un sistema che si è indebolito e tutti andavano, c'erano le code a Milano per confessare, raccontare il sistema corruttivo. A quel punto però le indagini sono andate così in là che stavano facendo crollare il sistema troppo anche alla base, non c'erano più, cioè cadeva l'impresa, l'imprenditore, il politico, cioè, e quindi a un certo punto è arrivata troppo vicino il bosco stava arrivando alle case, perché era un sistema. Lì ci voleva un cambio, la gente ha capito che stava saltando tutto i suoi riferimenti e quindi c'è stato poi un rigetto, basta, la richiudiamo e poi abbiamo, dopo 20 anni, credo che tutti siamo convinti, per il poco che riusciamo a vedere ogni tanto di qualche indagine, che il sistema ovviamente si è perpetrato, non si è risolto nulla e quindi si è rintuzzato, cioè invece uno dice avevamo scoperto questo, liberiamoci di questa corruzione che indebolisce, diamo via libera a una concorrenza sana. No, abbiamo fatto il contrario, no? È una cosa paradossale. Ho perso il filo, cosa stavo dicendo prima di Mani Pulite? del sistema delle scelte, del civile e del penale. Ecco, mentre il civile, sappiamo tutti, cioè anche lì ci sono studi di economisti, non di magistrati, che dicono che far funzionare il civile avrebbe un effetto di aiuto all'economia e quindi a tutti noi enorme, perché intanto pensate, un processo che è lento e che funziona male conviene a due categorie: a chi ha torto e a chi ha tempo di aspettare, quindi è furbo o ha i mezzi per aspettare; chi ha il debito di 1.000 euro, che quei 1.000 euro però non lo fanno arrivare, cioè sono a fine mese, sono 1.000 euro che pesano. Non c'è neanche, oggi noi vediamo, a Modena abbiamo visto un calo della richiesta di giustizia, perché la gente ha rinunciato, perché la piccola giustizia, dall'altro lato quello sa di poter non pagare, di poter truffare, perché sa che dall'altra parte c'è una parte così debole e c'è una giustizia così lenta e inefficace che quello lì rinuncerà a ottenere giustizia. Questa è una cosa devastante economicamente, psicologicamente, per la tenuta delle istituzioni, per la fiducia nelle cose. È terribile, no? Capite questa cosa? Quindi lì bisognerebbe veramente, ma sono anni che tutti dicono sì, civile, facciamo ripartire, e non viene fatta questa cosa. Lì l'informatizzazione ma fa ridere. Non siamo quasi neanche ancora a una possibilità di rendere del tutto digitale almeno le comunicazioni con gli avvocati. Penale non ne parlo neanche, proprio non, penale l'informatica non esiste. Per dire che pensate che mentre tipo in Svezia ho visto come facevano il processo telematicamente la polizia, piccole cose, aveva sulla sua vettura il computer, faceva gli atti, li vedeva direttamente sul computer il PM svedese di Stoccolma, mi faceva vedere che aveva 25 processi pendenti, ecco, ho fatto gli atti e alcuni processi li chiudevano in poche ore. Io ne ho 800 e non sono di quelli che ne hanno di più in Italia, ho 800, loro avevano mediamente tra i 25 e i 50, io ne ho 800, ho pile di carta assurde, io per quello che loro chiudono in 2-3 ore, io dopo 24 ore sto ancora facendo la notifica all'avvocato e alla parte per nominargli l'avvocato, anche se si tratta di un coltellino che ha portato fuori, con dei costi del processo per lo Stato che sono superiori a magari alla sanzione, in cui veramente, ma non dico che sia sempre voglia di volontà degli avvocati, delle volte gli unici che ci guadagnano sono gli avvocati, naturalmente, perché ci sono delle cose, questo in tutti questi settori si dovrebbe totalmente togliere tutto un apparato di garanzie che hanno senso quando tu mi stai minacciando una sanzione perché ho fatto un reato serio, perché ho bisogno di essere, allora lì è come se ci vuole la cosa fatta bene, ma le risorse vanno investite in quel caso. Quindi, tolto il civile, sul penale qual è il discorso che volevo fare di fondo? Che è... voi pensate, secondo me, che il processo sia quello americano, in cui no, c'è questa scena bellissima, l'avvocato che riesce sempre a beccare in castagna il test, e poi tutto, che poi ci aggiorniamo oggi pomeriggio alle 4, domani mattina, no? Così. Io adesso, tanto per subito darvi un'idea della distanza di queste cose, ho per esempio un processo per corruzione a Carpi, in cui ci sono stati inizialmente, un anno e mezzo fa, una decina di arresti, tutti confermati, molti hanno confessato, c'era proprio un sistema che andava avanti da anni, non cose, diciamo, mostre, ma corruzione, c'era tutta una spartizione con alcune società che erano d'accordo per dirottare gli appalti, per evitare di applicare la procedura corretta, e c'era questo pubblico amministratore che si scopre che negli ultimi 10 anni non aveva mai fatto un prelievo dalla banca e il conto continuava solo a salire, no? Vabbè, in questo quadretto piccolo ma che vi dà il senso del sistema, del sistema in cui ci guadagnava lui, ci guadagnavano gli imprenditori, ma non ci guadagnavano i cittadini di Carpi e di Castelfranco in quel caso. Un anno e mezzo fa, proprio scoperto per puro caso, fortuna, perché c'è uno che si incavola e va a raccontare, cosa che normalmente non succede, allora da questo apre la breccia e noi riusciamo a guardare, perché normalmente non riesco, perché poi anche qui sarebbe da spiegare perché non si riescono a fare i processi per corruzione. Qui ogni tanto, quando vi assicuro che è un caso quando si riescono a fare, ci vuole un colpo di fortuna, perché altrimenti il sistema è chiuso, è perfetto, e quelli che ci partecipano sono tutti contenti. Non è nemmeno la violenza sessuale o l'estorsione in cui c'è la vittima che prima o poi magari ha il coraggio, la voglia di ribellarsi. Qui è senza vittima, la vittima non sa di essere vittima. Dopo un anno e mezzo, allora, sono stati arrestati, tutto bene, adesso loro non hanno ancora dato un soldo, noi stiamo sono stati arrestati più di un anno e mezzo fa, scusate, ma almeno 2 anni, e io a ottobre farò la prima udienza del primo grado, a ottobre facciamo la prima udienza del primo grado, e dopo 2 rinvii del collegio, rinvii di 6 mesi in 6 mesi, non sono riuscito neanche, eccezioni, cose, tutto, devo dire, parlando di niente, perché poi davvero le difese qui stanno un po' allungando il brodo e basta, ma me lo dicono loro, questo non è mio, me lo stanno dicendo loro, attenzione. E in un po', purtroppo in il nostro particolare distretto, per questo tipo di vicenda c'è un rischio di prescrizione anche per un fatto così, cioè un fatto colto subito, figuriamoci per quelli scoperti dopo. Ora, di fronte a questa cosa, non voglio deprimervi, però vorrei, perché poi io non mi deprimo io, se non mi deprimo io, sono lì che sto, magari passo le sere a lavorare per delle, io se dovessi fare il conto di quante ore potrei lavorare oggi inutilmente, perché queste ore le ho dedicate a cose che si prescriveranno, oddio, no, non ci penso, insomma, uno fa quello che deve fare perché lo deve fare, insomma, ormai sono di quest'ottica. È chiaro che la cosa fondamentale è che noi dovremmo fare il processo all'americana per i pochi processi importanti. Non posso portare a processo miliardi di cose, noi facciamo migliaia di processi per tutto. Il processo orale, cioè quello fatto con i testimoni, sentendo tutti, col contraddittorio, è molto dispendioso come tempi, come cose. Quindi si può fare solo per alcuni. Nessun paese in America lo fanno, ma perché un PM americano lui sceglie che cosa perseguire e chi perseguire. È una scena classica anche qui dei film, ma è vera. No, ho troppe poche prove, non mi conviene, no? È un ragionamento che fanno, un sistema, noi non lo potevamo mai accettare. Pensate se io vi dicessi, no, questo qui, guarda, non l'ho perseguito perché non mi conveniva. Io devo fare, devo trovare le prove. Io posso dire che non ho trovato le prove, ma non che non mi conviene o che sarebbe troppo faticoso. Noi su questo non abbiamo nessuna capacità di dire, abbiamo preso il processo americano nell'88 e l'abbiamo applicato a tutto, con delle scenette ridicole per cui ci sono i testimoni che dopo anni vanno a raccontare, ma io non mi ricordo più niente, allora le leggo quello che lei disse, io ve lo giuro, non sto scherzando, allora dopo anni arriva per questo processo, per tutto bloccato, va lì, lo leggo, ma non mi ricordo, guardi cosa ho detto esattamente, allora guardi, io le leggo, perché ce l'avevo, le leggo a sua memoria quello che lei ha detto, che questa persona era vestita così e così e così e che ha detto questo, me lo conferma, guardi, non mi ricordo, secondo lei ha detto il vero? Ma sì, avrò detto il vero, benissimo, allora poi sia così, questa è l'audizione. Poi magari succede che quel giudice lì che sta facendo il processo poi si rinvia di 6 mesi, ma non perché il processo dura anni, perché noi invece di avere un sistema che fa un processo alla volta, breve, avendone troppi, si sceglie di portarli avanti tutti insieme, il processo dura 2-3 udienze, un processo grosso ne dura 10 giorni, un processo enorme dura 40 udienze, ma stiamo parlando proprio di poco, 40-50 giorni, e perché poi mi dura 4 anni? Perché ne sto facendo 50.000, mi porto insieme 50.000, il processo, il problema è quanti li facciamo, non che siano lunghi di per sé, sono troppi, no? E li facciamo tutti così, ma se io devo, uno l'ho sentito in una certa maniera, oppure addirittura sento il finanziere che ha guardato le fatture e mi viene a riguardarle, a rileggerle dopo anni, poi magari quel giudice, e questa è una cosa dove io dico che con i miei colleghi sbagliamo, noi abbiamo anche troppa possibilità di spostarci. Quel giudice, in Sicilia capitava, naturalmente c'era la fuga, io lavoravo a Castelvetrano, il paese di Messina Denaro e di quello di Salvatore Giuliano, e lì i giudici naturalmente duravano poco, per tante ragioni. E c'erano processi che ogni volta che il giudice cambiava, monocratico, un giudice solo, ripartiva da capo. Cioè l'avvocato aveva diritto di dire no, quelle prove che abbiamo stampato, tanto dei volumi, cioè secondo me si trovano delle malattie in certi faldoni scomparse, nel senso degli animali che non esistono, gli estinti, che sono in questi faldoni, alcuni fanno un po' più senso a toccarli. C'era un processo, mi ricordo, che io ho fatto nel 2007 a Castelvetrano, che era iniziato nel 98. Ed era uno che aveva perso un occhio, stavo parlando di uno che aveva perso un occhio perché uno gli aveva volontariamente infilato un dito nell'occhio perché sapeva che aveva un tumore e gli ha fatto un danno, quello lì ha perso la vista, un occhio, e dopo 7 anni lui stava vedendo per la quarta volta, veniva a testimoniare perché cambiava, non riusciva mai a finire il processo. Io dico, ma capite che puoi dire, ma migliorare questo vi sembra difficile? Cioè, basterebbe dire, non facciamo monocratico, basterebbe dire che quando il processo ha 3 giudici, se ne cambia uno, non hai diritto di rifare tutte le prove, perché ne è cambiato uno. Invece noi, con la scusa delle garanzie, hanno fatto parlare delle follie. I colleghi stranieri, quando ho raccontato in Svezia come lavoro, i numeri che ho, la nostra procedura, non ridono, non ci credono. Cioè, attenzione, qui non voglio fare la parte che magari potrebbe facilmente sembrare avvenisse qua. Cioè, io ho un grandissimo rispetto, io parlo molto con gli avvocati, ho molti amici che stimo tra nell'avvocatura. Ma loro, quelli seri sanno benissimo che ci sono cose serie, anzi, in cui magari i diritti non sono abbastanza. Perché poi c'è il contrario, no? Lo iellato di turno che finisce nella mega operazione di mafia e che io, cose che ho visto, siccome facciamo queste mega indagini esagerate, troppe carte, troppe. E ci mette degli anni perché la gente, qualcuno riesca ad ascoltare la sua storia, e questo anche accade, ma la massa che ingolfa completamente il procedimento e che magari non ti permette di fare bene il tuo lavoro quando lo dovresti fare, perché io, se voi avete un processo, voi dovete pretenderete che il magistrato sappia perfettamente, cioè da voi volete giustizia, volete che legga tutte le carte perfettamente, che sia preparato, che sia sereno quando decide. Non che debba dire, cavolo, adesso stanotte devo fare le 3 perché domani devo fare un processo con 4 faldoni che riparto da capo. Non volete questo, se vede da chi vi viene giudicato, no? Invece è tutto al contrario. Allora facciamo meno processi, togliamo delle regole inutili, mettiamo più garanzie dove servono, ma togliamole dove sono soltanto un orpello che è stato dato da una classe folle, perché fondamentalmente non vogliamo far funzionare, perché la legalità dà fastidio, è scomoda, ci costringerebbe davvero a cambiare il modello di vita. E allora io credo che questo, per fare un esempio, cioè fare meno processi, farli più semplici, sono due cose magari un po' generiche, ma potrei fare degli esempi. Noi facciamo le notifiche mille volte. Allora, la contumacia. Ah, noi, perché poi ogni tanto viene fuori la polemica, qualcuno è, perché poi noi l'Italia fa queste figure a livello internazionale perché facciamo i processi in contumacia. I processi in contumacia sono quelli in cui l'imputato non è presente. La contumacia è un diritto. Quando, se uno è contumace, vuol dire che io ho avuto la prova che gli è stato informato che c'è un processo e lui ha il diritto di non venire. Diciamo che può sembrare giusto. Cosa succede? Che molti se ne avvalgono di questo diritto. Uno, perché ci sono delle facce che se entrassero nell'aula del tribunale, diciamo, il giudice fattivo avrebbe già una vaga idea. Mi sono capito un paio di casi in cui la presentazione è stata proprio, diciamo, non era il caso. Ma questa è una battuta. L'Ombroso, ogni tanto ci viene il dubbio che l'Ombroso ha tutti i torti. Questa è la battuta. L'episodio, per farvi sorridere, è questo, che è un processo per delle rapine. E udienza, un processo da un gruppo, un abbreviato, e avevamo c'era un problema di un riconoscimento, cioè tutto si giocava sul riconoscimento di questo rapinatore, che aveva molti precedenti per rapine, però era una descrizione particolare e lei l'aveva visto soltanto, e non aveva il passamontagna, era rapina professionista, quindi gente armata, e l'aveva visto, il testimone l'aveva visto soltanto, una delle prove fondamentali era questo testimone, che però l'ha visto soltanto con gli occhi. Devo dire, noi leggendo le carte, ero con un magistrato d'altro molto, molto noto, parlavamo, diciamo, ma non regge, perché francamente sembra un riconoscimento. Già in generale la testimonianza è la prova peggiore che ci sia. La testimonianza è la prova più inattendibile che ci sia. Voi provate, fate delle prove tra di voi, a far raccontare a due persone che conoscete un episodio di un anno fa. Non ci azzecca niente, ricordo dov'era, l'orario, cosa ha fatto. Un disastro. La testimonianza è la cosa peggiore che ci sia. Può funzionare solo quando è immediata. Noi la facciamo dopo anni, quindi è una roba veramente terrificante. Questo è il riconoscimento, alle volte basta. In questo caso, francamente, era un riconoscimento di cui non ci fidavamo tanto e non ci sembrava, insieme ad altre cose c'erano, insomma, ma mi è rimasto impresso questa cosa. Si è presentato, diceva, ma questi occhi chi ha? Si presenta e aveva due fanali, non due occhi, sembrava una specie di Paul Newman. E a noi, non mi ricordo sinceramente neanche che era stata la decisione in quel caso, però ricordo che ci siamo guardati e in quel caso presentarsi con questi due occhi azzurri, diceva, vabbè, io ti posso riconoscere dagli occhi perché sono due occhi non normali, insomma, veramente di ghiaccio. Va bene, chiuso parentesi, battuta. Però noi, cosa succede? Facciamo, con i miei parentesi per i figli, dicevamo del processo sui rinvii, le notifiche sono una... adesso avevo una cosa carina da raccontarvi, ma con questa parentesi l'ho... La contumacia, quindi è un diritto, per lui era un diritto non presentarsi, se è presentato in quel caso non gli è convenuto. Allora, succede, qua seguitemi perché è una piccola cosa, ma vi fa capire veramente l'assurdità. Vabbè, io faccio il processo a Tizio perché è un rapinatore. Gli facciamo il processo, condanna magari in primo grado, e lui appella. Lui è stato contumace, non si è mai presentato. Va bene, sul diritto c'era l'avvocato. Tra l'altro questo ha fatto sì che se io, per esempio, durante il processo ho scoperto, una cosa non ha fatto non rara, che lui ha fatto un'altra rapina, perché magari è emerso che siamo riusciti a scoprire nel corso, è emerso delle prove, e gliela contesto, si dice, no? Io glielo posso fare in processo perché è collegata, perché magari l'ha fatta. Lui ha avuto diritto a una notifica, quindi abbiamo dovuto rinviare, notificargli il verbale, alla successiva udienza, vabbè, qualche appello in più, ma questo è veramente il meno. Arriviamo al processo, lui appella, decisione, viene depositata la motivazione, lui ha un tot di tempo, siccome lui era contumace, aveva ovviamente un difensore sempre presente, eccetera, gli va notificata la sentenza. Poi lui fa appello, il difensore ovviamente incaricato, insomma, fa appello. Si va in appello. Io ho avuto l'avventura di essere applicato in procura generale, cioè quelli che fanno quello che sostengono l'accusa in secondo grado. Un 20-30% dei processi, comunque un numero rilevante, tanto è vero che poi mi si è messo a parlare con un avvocato, saltava. Perché? Perché la data di fissazione Quando è stato fissato il processo d'appello, dopo magari un anno abbondante, anche di più, a Bologna c'era stato un momento durissimo che aspettava anche 2 o 3 anni, delle volte sta un anno fermo senza neanche lo trasmettono il processo. Ci sono dei processi che si prescrivono in cancelleria che non la trasmettono. Dopo un anno o due fissano poi l'udienza, ma si scopre che l'imputato che ha appellato non ha ricevuto la notifica della sentenza a cui non era presente la lettura. E quindi si rifà, si deve rifissare perché non gli è stata notificata la sentenza contro cui lui sta appellando. Va bene? Quindi ufficiali giudiziari che vanno lì. Tra l'altro, per esempio, c'è questa cosa carina che se io non voglio ricevere, magari delle volte per un fatto di privacy, no? Invece di ricevere le carte a casa mia, dico no, ricevo tutto presso l'avvocato e leggo domicilio presso l'avvocato, per esempio. Quando io notifico l'avvocato, non ne parliamo di via mail, non esiste. Cartaceo, ufficiale giudiziario che vi costa tempo, cosa va lì. Beh, nel caso dell'avvocato lo possiamo fare via fax, ma dobbiamo fargliene due: una per lui, una per il suo difensore. Va bene, cioè per dirvi il tipo di burocrazia dove non stai garantendo nulla. Che garanzia trovi se colui ha appellato? Come fa a non sapere la sentenza che sta appellando? Allora, questa cosa io per esempio, Sulla fiducia. rubando un argomento a Davigo, che è questa cosa molto. Nella maggior parte dei paesi, se tu non ti presenti al tuo processo, ti arrestano. Cioè, quelli che si riempiono la bocca dicendo: ah, ma perché poi qui in Italia questa barbarie della contumacia? La contumacia è una barbarie, nel senso che è una roba vergognosa che noi consentiamo e che ci si ritorce contro, anche perché, non ultimo, tante volte in realtà il contumace, che non si presenta per varie strategie di paura, delle volte potrebbe chiarire la vicenda, attenzione, cioè delle volte la partecipazione, cioè in un'ottica anche di accertamento, io la persona la voglio, ma come faccio a giudicare una persona che quella non c'è? Dovrà poter interloquire, no? Infatti ha diritto sempre a fare dichiarazioni spontanee. Quindi io direi, ok, togliamola la contumacia, però io ti arresto se tu non ti presenti. Benissimo, non ho problemi. Così il processo inizia, tu ci sei, non ti devo più notificare nulla, abbiamo finito. Invece noi facciamo la notifica del sequestro, poi la notifica dell'avviso di conclusione indagine, poi magari nel frattempo cambia avvocato, se ha cambiato avvocato devo ripartire da dietro. Voi non avete idea nei meandri delle notifiche e delle possibilità di contumacia che noi diamo, di quanto tempo si perde. Quindi togliamo la contumacia, avremo già scelta magari forte, magari faccia fare la pediatra più gravi, non so. Però scusate, a me sembra anche, sarebbe un segnale anche culturale. Poi è un processo che è lo Stato contro quella persona. Ma vi pare serio che uno non si presenti? E cioè, che rispetto c'è per la. Dovrebbe essere non tanto un fatto di costrizione, ma perché dovrebbe stare nelle cose naturali. Poi se quella persona non può, il legittimo impegno, ovviamente ce ne sono, se non sta male, non viene. Ma non che viene se ha voglia, io sono lì a lavorare. I testi vengono e magari vengono rispediti indietro 3-4 volte, perdono le giornate, i testimoni ci odiano. E lui a casa, ma vi sembra? Cioè, beh, dico, adesso è una follia, è una follia. E poi noi facciamo i processi agli irreperibili, cioè persone, non so, abbiamo fermato una persona, tipicamente lo straniero o l'italiano, che poi improvvisamente sparisce, non ha più domicilio, non si trova più. Nella maggior parte dei paesi normali il processo si sospende, è inutile perché quella persona lì, poi se la ritrovo gli faccio il processo, negli altri processi proprio se la ritrovo vuol dire la pigliano e la riportano al processo, va bene. Noi facciamo gli arresti, i mandati d'arresto europeo, la maggior parte che li vedo sono perché la gente non si presenta ai processi, cioè noi arrestiamo la gente in giro per il mondo per mafia, cosa, gli altri perché non si sono presentati per una guida in stato d'ebbrezza e non erano presenti lì, no? Noi che avremo bisogno di quella rigidità vista l'illegalità che c'è, invece diciamo alle persone di fare quello che vogliono. Non so se vi ho fatto un piccolo quadro di quante cose si potrebbero fare meglio, no? Ma per dire proprio l'assurdità, insomma. E così potremmo andare avanti. Io, per esempio, questo non tutti sono d'accordo, ma la Costituzione garantisce un controllo di legalità su tutte le decisioni. Cioè io qualsiasi decisione giurisdizionale, anche abbiamo la garanzia in Costituzione che uno possa almeno appellare in Cassazione per verificare che la legge è stata applicata correttamente. Per me sarebbe una scelta anche razionale, il mondo perfetto non esiste, di dire facciamo così, i processi meno gravi, cioè io faccio anche processi per corruzione, poi ci sono processi, insomma, violenze sessuali, abusi complicatissimi, piuttosto che. Poi ci sono anche cose ma veramente sciocche, con prove evidenti o comunque con sanzioni, cose, il piccolo furto, la questione fiscale di minimo valore, le contravvenzioni, le cose documentali. Lì fai un processo di merito, magari con 3 giudici e non uno. e non fai l'appello, poi se vuoi l'appello fai un grado fatto bene, investi più risorse subito, non devi fare tante notifiche, poi se vuole altro esempio per dirvi un altro paese, che sempre la Svezia, che è chiaro che la Svezia non è paragonabile a noi, il problema è che noi, la cosa paradossale è che la Svezia si potrebbe permettere di funzionare come noi perché ha pochissime criminalità, mentre noi avremmo bisogno di avere un sistema pratico come loro, invece funziona l'inverso. In Svezia sono 10 milioni, è un paese più piccolo ma non è un paese minuscolo, sono 9 milioni e mezzo, in Cassazione, cioè al terzo grado, mi ricordo di aver parlato con questo che tra l'altro sembrava uscito da un film il grande regista svedese, quello del Settimo Sigillo, da di Bergman, queste figure belle, alto, tutte le gambe, questa, mi raccontava, faceva vedere, loro fanno 40 processi all'anno in Cassazione, sono i processi che una sezione della Cassazione fa ogni giorno in Italia. Noi facciamo, penso che in una settimana Cassazione civile e penale, guardate, non fanno meno di qualche centinaio di decisioni in una settimana. Cioè va tutto in Cassazione. Perché va in Cassazione? Perché tanto, come minimo ritardo la decisione definitiva. Per di più, in Italia ti conviene perché ti dici, guarda, se tu tiri intanto in lungo, poi può darsi che il gioco, come dire, il cacciatore si metta ad inseguirti perché tu, perché c'è la prescrizione. Quindi incentiviamo la fuga dal processo. Se io dicessi già, guarda, anche fra 20 anni, ma poi ti arriva, allora molti che non hanno magari da spendere, buttare via i soldi, a un certo punto si fermano. Invece è chiaro che tutti dicono, vabbè, la mia pena è pagare l'avvocato, ma io vado avanti. Ma giustamente non è una colpa, diciamo, né dell'imputato né degli avvocati, la colpa è mia che ti do questa possibilità. Non esiste paese in cui c'è il togliere la prescrizione sarebbe giusto, ma avrebbe effetti virtuosi, perché la gente smetterebbe della fuga dal processo, perché non sarebbe più una soluzione e molti farebbero più patteggiamenti eccetera, perché dico, è inutile, allora cerco di avere una pena più bassa. Vi faccio un altro esempio, che è una cosa di cui nessuno mi parla mai. In America si possono mettere d'accordo anche sull'ergastolo, cioè loro hanno un sistema in cui il patteggiamento, il negoziato sulla pena arriva a tutto, non c'è un limite. Se l'imputato è d'accordo, se la parte pubblica, il PM è d'accordo, c'è poi il giudice che lo controlla, ma noi no. Se io domani ci arriva uno e mi dice, confessa un reato gravissimo, insomma, per cui c'è una pena che non può stare sotto i 5 anni, perché per quanto, come detto, stava sopra, o anche mettiamo un omicidio, che per qua il ladro di biciclette di oggi il ladro di biciclette, però lo posso patteggiare, oggi facciamo un altro esempio, perché oggi Tarfusser raccontava che il ladro di biciclette rischia fino a 6 anni se ha una recidiva, un'altra aggravante, o 10 fino a, poi non diamo queste pene, però per dire ci sono quel tipo di sanzioni, mentre per reati molto più i reati edilizi che hanno distrutto per esempio la Sicilia sono contravvenzioni che si prescrivono in 4 anni e mezzo e che sono punite in maniera da ridere. È più grave quello che mi distrugge la costa siciliana o l'auto di biciclette o la bancarottia, la bancarotta, io ho patteggiato tantissime volte purtroppo bancarotte a 2 anni, pene sospese, perché poi noi anche lì sulla pena io ne parlo, perché e gente che magari si è rubata dei milioni di euro, però tanto non vado da nessuna parte, non è che mettendolo e quindi delle volte quei processi si chiudono perché si possono chiudere a 2 anni con la pena sospesa, quindi niente, stretta di mano, più di uno mi ricordo veniva a stringere la mano, però era contento, certo, ha fatto benissimo, e non ha fatto benissimo nel senso che è stato molto furbo, ovviamente per me non è mai una qualità. Cioè adesso ho riperso il film, ma veramente capite che è, io mi fermo un attimo, magari avete qualche domanda, perché sennò da ammirare la vostra attività, perché da cittadino che si deve rapportare ogni giorno anche per lavoro, no? Noi siamo una pubblica amministrazione, quindi dobbiamo anche attenerci alle regole del diritto amministrativo, ogni tanto ci domandiamo, cioè noi dovremmo essere tutti dei laureati in legge, esperti in diritto amministrativo per muoverci, perché è talmente complesso ogni meccanismo che tu ti domandi se la giustizia, cioè questo sistema di legge che abbiamo in Italia, come sia stato, invece di preoccuparsi di far bene il proprio lavoro, mi devo preoccupare di rispettare questa rete di burocrazia e di cavilli, che è una cosa che paralizza. Ma anche come cittadino, non so, diventa veramente difficile capire e anche ansioso, devo dire, se capire se ti stai muovendo in maniera corretta, se ti stai esponendo involontariamente ad un rischio perché non ignori un cavillo e non so, cioè vediamo che man mano si compie questo sempre di più. Questo per esempio fa sì che si stia diffondendo in tanti campi un atteggiamento difensivo. Il campo principale è quello medico. Questo accanimento che dico dal mio punto di vista veramente eccessivo che c'è rispetto alle responsabilità mediche, perché io faccio tanti processi per responsabilità medica, ne ho tanti, perché ci sono per carità i casi, però c'è anche tantissima speculazione su questa cosa, tanta speculazione. Questa speculazione in cui si trova sempre, guarda caso, un consulente che dirà sempre che Colice aveva ragione, perché alla fine lo fa per ottenere comunque, provare a ottenere un risarcimento dei soldi, ma ve ne potrei raccontare anche qui da ridere per non piangere tante, cosa produce quel meccanismo? Allora, quando mi fanno la denuncia per una persona, intanto io sono costretto a fare una consulente, perché quasi mai... ho provato uno o due volte, ma di fronte a un consulente loro di parte che dice che lui ha sbagliato, come faccio io a dire che non è vero? Dovrò pagare, voi dovrete pagare il consulente del pubblico ministero, mi dici se in questo caso poteva far meglio, poteva essere stata cosa. Consulenza che costa qualche soldo, perdo e lavoro, il tempo che occupo in questa cosa. Spesso termina con un nulla di fatto di queste cose qua, ci sono delle cose veramente pretestuose e ci abbiamo perso noi, ci ha guadagnato in questo caso l'avvocato e il consulente tecnico, che poi hanno avuto anche quello di controparte, e non abbiamo prodotto nulla. Abbiamo poi prodotto un ulteriore effetto: le assicurazioni ormai sono terrorizzate e hanno molto tirate indietro nei confronti dei medici, che sono veramente preoccupatissimi, per cui moltissimi medici smettono di fare attività chirurgica operatoria, sì. Fanno solo diagnosi, fanno solo attività difensiva, di consulenza, perché hanno paura, e la gente dà dei consigli ragionando più che altro in termini ma un domani qualcuno mi può dire qualcosa piuttosto che non. Questo è un discorso anche culturale oggi di non accettare mai più la malattia, ci deve essere sempre un capro espiatorio, no? Insomma, tutto questo meccanismo è folle, nel senso che probabilmente io credo che si pensa di usare il processo penale per far migliorare i medici in Italia, ma non è il processo, non è la, come dire, la minaccia costante del processo penale con i costi che per loro ha, per le assicurazioni, che sono costi che poi alla fine si riversano tutta la collettività, che migliori. Lavoriamo sugli ordini medici, vediamo di farli lavorare. Per esempio, per dirvi una cosa concreta, no? A me, di un caso che io, tanto in quel caso, chiesi la condanna e la ottenni, ma per dire che non è così che si può ragionare. Noi avevamo fatto, c'era un caso di un bambino che si rendono conto tardi che durante il travaglio è in sofferenza, non fanno il cesareo perché a quel punto è troppo tardi, il bambino è sceso troppo, e fanno il parto, diciamo, normale, però questa la lentezza con cui è uscito, tutta la sofferenza, la mancata respirazione in quella fase, fa sì che abbia un danno cerebrale gravissimo. E praticamente questo bambino nasce vivo, ma nasce vegetale, con un danno cerebrale irreversibile, perché per troppo tempo non ha avuto ossigeno. Tutto il processo era, potevano capire prima e quindi scegliere prima il cesareo o no. Vi faccio questo esempio, perché questo esempio è anche, come dire, evidentemente è una cosa super seria, cioè stiamo parlando di un caso molto grave che ha devastato le vite dei genitori, è un caso che economicamente, psicologicamente, è un caso importante, cioè meritava sicuramente l'accertamento processuale. Però mi interessa raccontarvi un'altra cosa. Abbiamo fatto un processo lunghissimo, complicatissimo. Lui aveva due difensori molto bravi, tra l'altro, con due consulenti che dicevano che quei tracciati, sapete che ci sono i tracciati durante i travagli che dicono i battiti, il respiro del bambino, diceva una certa cosa. Loro addirittura pagano uno che aveva fatto pubblicazioni in inglese, che diceva di essere il massimo esperto, forse lo era, tra i massimi esperti mondiali, di lettura dei tracciati. Noi nominiamo tre medici dal centro, dal nord, pagati, tre persone, perché era così complesso che c'era una consulenza collegiale. Quindi in totale credo che siano stati il mio consulente, loro due, tre, almeno sei consulenti, e le difese, le discussioni, vi dico cosa, non vi dico cosa è stato il dibattito tra i consulenti su questa agricoltura dei tracciati, cioè si stava facendo, come dire, accademia, e in quel momento noi stavamo, alla fine i tre, diciamo, del collegio, i tre periti, si chiamano quelli che nomina il collegio, il tribunale, in quel caso ci dicevano che c'era stato un errore, in effetti c'erano delle cose da cui avrebbe dovuto capire di fare il cesareo, non rischiare, e quindi c'era la responsabilità. Abbiamo condannato, ho chiesto una pena, io alla fine, diciamo, con mucha sofferenza, perché adesso poi gli spiego perché la sofferenza, e ho chiesto la condanna, è stata ottenuta, con le conseguenze, mi spiegava un avvocato davvero serissimo, molto bravo, quindi, che il problema non era, cioè lui avrebbe potuto anche patteggiare di fronte al fatto una situazione che in effetti poteva essere contestabile, ma che era un danno civilisticamente talmente grave che lui era rovinato, l'assicurazione non lo copriva, e questo avvocato era completamente rovinato, ne andava proprio della sua sopravvivenza economica, non doveva ipotecare casa, tutto, alla fine, cioè non, perché capite cosa può essere il danno di un bambino da mantenere a vita con cure, con macchine, è una cosa incredibile, e l'assicurazione non lo copriva. Noi poi abbiamo un po' ricostruito, e questo qui, tra le cose che mi hanno fatto molto pensare, era comunque un medico raccontava di una situazione, cioè noi avevamo da un lato questi che raccontavano i testi, ecco il testo americano, che poi sono sempre testi americani, come si deve fare, no? La regola dell'arte, come il medico perfettamente aggiornato avrebbe operato in quella situazione, e alla fine si disse sì, effettivamente c'era quella possibilità di capire, di intervenire e evitare questo fatto. Però mi domanderò sempre, abbiamo considerato abbastanza che colì stava lavorando di notte nel pronto soccorso di Castelvetrano, aveva altri 5 parti, aveva fatto un tot di ore di lavoro. Cioè, io mi domando, e ho avuto la sensazione da un certo punto, perché quello lì fosse un buon medico. E in questo sistema io lo stavo colpendo perché si era trovato a intervenire in una situazione difficilissima, e che aveva fatto magari un errore, quando magari non stiamo colpendo e processando quello che non fa niente, che lavora male, che però magari per sicurezza fa 50 cesari al giorno, perché è comodo fare sempre cesare, non si sbaglia mai. Io posso essere comodo, che ne so, a restare sempre o a chiudere sempre, così non mi sbaglio mai. Sono attività professionali difficili, e dico, ma ha senso questo tipo di attività, e che è costata tantissimo? Cioè lì chiaramente, ovviamente, è altrettanto il problema di, come dire, tutelare e dare una risposta di sostegno alla famiglia, però si può tenere diverso dal fatto di dare una risposta penale a tutto. Noi ormai siamo, per un verso, in illegalità totale, per altro verso pensiamo che il processo penale, i magistrati siano la soluzione di tutto. Contro la malasanità, contro... No, non lo siamo, non possiamo esserlo. Ecco. Questo chiudo l'episodio, ma perché vi racconta quanto sia intricato e non banale dare delle risposte. Grazie signora, buonasera. No, scusa, io poi parlo, sono un chiacchierone, mi fermo perché abbiamo proprio visto. Sto... No, vedo che ci sono tanti ginecologi, adesso per dire, che non rinunciano ormai all'attività ostetrica perché è una cosa naturale, però che può avere dei rischi. Cioè, i ginecologi, io non so quanti ne ho indagati in questo momento, cioè no, continuamente, se c'è, perché lì, però ripeto, secondo me, io se guardo il fermo da lontano direi, ma allora facciamoli lavorare bene, interveniamo sulla loro formazione, interveniamo soprattutto su quelli che lavorano male, non su quello che, perché secondo me il problema da cittadino è chi lavora male poco, non chi può fare un errore. Chi di noi, facendo un'attività complicata tutti i giorni, non si guarda da dietro e dice, ma potevo fare meglio una cosa? Con questa logica noi, secondo me, ci stiamo facendo del male, non stiamo aiutando a lavorare meglio, abbiamo un'ottica sempre solo punitiva e non di dire, vanno puniti i fannulloni, i furbi, quelli che si imbottono, e ce ne sono tanti ovviamente, però quelli non arrivano a questi casi, state tranquilli, non ci arrivano. C'è anche, e infatti c'è la tendenza proprio a scansare ormai la responsabilità, sì, sì. No? Quindi sì. Si cerca laddove è possibile di evitarla, perché ha dei risvolti penali, legali, e non, ripeto, ormai è necessario per muoversi, per fare ogni piccola cosa, una laurea in giurisprudenza, cosa che se tu operi in un settore culturale o in un settore scientifico, in un settore ti dovrebbero richiedere altre competenze, invece ti devi muovere, no? Adesso faccio un esempio, anche solo alcune piattaforme per acquistare delle cose, fare degli appalti, cioè se è abbandonato devi... Fai l'educatore per i bambini. Sì, però... Se lo tocchi in una determinata maniera, poi arriva la denuncia. Sì, quello è un altro argomento, diciamo, isterico, diciamo, purtroppo. Un altro terreno in cui c'è un problema e però gli si dà una risposta solo di pancia, irrazionale, qualche volta scientificamente razionale, cioè che proprio è voluto, si vuole dare un raccogliere il consenso di un certo tipo di opinione pubblica, ma senza riflettere bene su come gestire e affrontare certi problemi. Però rispetto a questo, l'unica strada è quella del basso. Io ne sono molto convinto, cioè non ci possiamo aspettare che la classe politica cambi, che la classe dirigente improvvisamente diventi illuminata, se la base non è consapevole, non c'è un percorso culturale che attraversa tutti e che ci fa tutti riprendere a riflettere, ad ascoltare, ci fa per esempio pretendere di avere dell'informazione, della formazione seria. E poi da lì allora secondo me si mette in moto tutto un meccanismo virtuoso in cui allora poi si discute delle cose effettive, si cerca di dare le soluzioni ai problemi, non di parlare di cose folli tipo processo breve, tipo le falsità che sono state dette sulle intercettazioni o per dire alcuni dei temi che provo a raccontare, e ci si mette a parlare delle cose serie e non degli ostacoli per lavorare, ma delle soluzioni che possiamo dare. Credo che di lì un po' si passi. Mi fermo veramente se avete qualche domanda, perché non c'è un po' di speranza ancora. No, ma la speranza è anzitutto quella dell'ottimismo, la speranza dell'ottimismo di Gramsci, se non quella della razionalità. Io avevo, una delle mie speranze è anche l'Europa, voglio dire, parte loro, no? E io oggi c'è una cosa in cui io credo, perché io penso che loro, la maggior parte, cioè chiaramente diciamo, non è il giovane, diciamo, rappresentativo lui, no? Non mi illudo che sia il tipico giovane medio, però quello di cui sono convinto è che un ragazzo che ha una passione, motivato, smuove e produce molti più effetti di 10 che non stanno facendo nulla, per cui non mi aspetto che la maggioranza sia illuminata, ma mi aspetto che ci sia qualcuno appassionato che sappia poi un po' contagiare. Questa è una speranza. L'altra speranza è l'Europa, perché noi siamo talmente avviluppati e decadenti che forse solo una prospettiva più lontana, solo che l'Europa purtroppo gli sta mancando questo respiro politico, istituzionale, eccetera, e sta diventando una cosa un po' da fusione a freddo, solo di economica, solo di cose potenti, quando invece avrebbe nelle sue potenzialità d'essere uno spazio, perché ho visto come in Europa delle volte si riescono ad affrontare i temi con maggiore, senza le beghe delle polemiche, ma a un livello più alto. Come dire, quando voi pensate o quando voi leggete o vi interessate a un argomento più distante, cioè si riesce ad avere uno sguardo migliore, no? più obiettivo, più pacato, no? Piuttosto che non... come dire, adesso non vorrei essere cattivo con i giornalisti locali con cui delle volte lavoro per le cose, ma insomma... il giornalismo di internazionale non è il giornalismo della Gazzetta di Modena, no? E c'è un modo di guardare le cose che è più illuminato, quindi per cui certe cose lì l'Europa poteva essere l'Italia più di tutti era uno di quei paesi che poteva beneficiarne, perché certe ignominie dette in Italia in Europa non si possono sentire, non le possono andare a dire ancora, e quando le sentono le uccidono dietro, no? E quella potrebbe essere una diciamo, quindi una garanzia, solo che è un percorso un po' complicato. D'altronde siamo qui in mezzo, nel guado, cosa bisogna fare? Cerchiamo di fare la cosa giusta, cerchiamo di perseverare. Dicevo, mi ha commosso una maestra che alla fine è venuta, che io ho parlato di perseveranza, mi è piaciuto, perché cioè, insistere anche quando i risultati non vengono. Ne abbiamo bisogno di questo, di essere, guardare molto in là, molto molto lontano, insistere. Io dico sempre che alla fine, perché è bello, perché trovare bellezza e soddisfazione in quello che facciamo, non perché dà un risultato, io la trovo comunque. Poi è chiaro che è frustrante, mi fa anche arrabbiare che poi le cose, perché io vorrei che le cose funzionassero, vorrei smettere di parlare di fare questo libro, vorrei che diventasse obsoleto, tutto funziona benissimo, io faccio solo il mio lavoro e andiamo bene. O senza lavoro, perché sono tutti bravi. Ma eliminare molti tribunali... Ma quello è un argomento, dunque, anche lì è stata una vicenda... Sicuramente ne abbiamo troppi, sicuramente andavano ridisegnati. E sicuramente, proprio per un fatto di studi economici, ci sono delle economie di scala, cioè tre uffici di 5 persone lavorano meno bene di un ufficio di 15. Questo è dimostrato, c'ha delle economie sul personale, comodità, eccetera. Quindi la direzione è anche quella. Il problema è che lì si sono scatenate le lobby dei singoli posti, al punto che io a un certo punto è stato un dibattito, nel senso che alcune scelte erano sbagliate. Adesso dovrei farvi degli esempi, non so, tipo un tribunale come Imola, che magari da quella di Imola in realtà è un tribunale grossissimo, ci sono dei tribunali che sembravano che andavano invece magari conservati perché avevano un bacino che in realtà non è gestibile, tra l'altro hanno spostato dei tribunali senza sapere dove metteranno quelli che si spostano. Per cui è vero che quando che è stata la Severino, no? Aveva fatto il primissimo progetto, poi ho perso il conto, perché è stato un momento che sembrava veramente che ci fossimo. E poi lì si sono scatenate da tutte le parti, soprattutto dai vari ordini di avvocati, tutte le resistenze. Io dicevo una cosa, non so se era giusta, perché molti dicono no, ma questo è sbagliato per questo è sbagliato per quest'altro. Dico, guardate, e può darsi che questa proposta di taglio dei tribunali non sia perfetta. Ma la paura è che in questo paese, se incominciamo a discutere una per una, non ne facciamo nulla. E così è stato. Si è cominciato a discutere una per una. Io avevo detto, forse è quasi meglio che prendiamo sto taglio come fatto, un po' con l'accetta, non fatto benissimo, ma almeno succede una cosa che si diceva da 30 anni. Io dicevo sempre, ma non chissà se la vedrò mai. Mi sembrava di vederla qua, dico, guarda, vediamola, facciamola. Poi sarà stata fatta un po', come dire, come si dice, in maniera grossolana, con qualche errore, ma forse altrimenti non si riesce a fare. E infatti è stato così, è saltata, e adesso siamo lì con qualcosa, hanno tolto qualcosa, è veramente, cioè quello che era inizialmente un qualcosa di rivoluzionario quasi per sulla pianta organica, che è Sabauda, va bene, sì, era un passo in avanti, era comunque un passo in avanti. Quindi dicevo, invece si siamo fermati. Questo è il paese, no, del problema dell'incapacità poi di fare un po' sistema e di guardare un po' tutti insieme a un risultato che è nell'interesse. Siamo troppo, questo è l'Italia degli 8000 comuni. Siamo troppo frammentati, troppo tutti convinti di avere le grandi ragioni. Si è scatenata una cosa incredibile. Fatto sta che prima a parole è come sul discorso, non so, noi siamo tutti bravi a dire che quel dato, non so, inceneritore o questione non va da noi, poi dove va da messo non si capisce mai. Noi siamo, insomma, tanti tanti veti e poche scelte, no? Poche assunzioni di responsabilità. Tutti bravi a dire no, e è così. Questo è un problema culturale che si riflette anche sulle questioni di istruzione della giustizia e di legalità. Qui non saprei dare soluzioni. C'era qualcuno che diceva che per ogni problema c'è una soluzione semplice, chiara e precisa. Scusate, semplice, chiara, precisa e sbagliata. quindi, insomma, le risposte semplici su queste cose sono delle illusioni. Io vi ringrazio. Grazie. Grazie per l'ospitalità.